mi arrendi davvero? Sin dal profondo inferno l'orride piume e miei comandi ergete. Volate, che tardate ai cenni miei, che sì, dite che sì. Dormo di lette, per lei già sono sponda. Iniqui errei, vo saper di Ruggero o da Cheronte verrò predare il regno. Orgogliosa, ma in vano. Lo so, sordo l'inferno, sordo il ciel. Che far deggio? Il gran saggio Merlin parli lo spirito. Aprite un muro il varco alla vostra reina.